Let's get a real lockup up there, please. Steve, please, for a minute. Guys, stop working for just a second. Rolling. Ready? Rolling in. House lights. Stage. Action, Nick. Roll playback. Yeah, you roll. Per te, al massimo, che in un sistema di numerazione posizionale a base 10, se non erro, fa 9. 9 minuti a disposizione da ora, dalle 12.06 del 15/10/2012. Un'apnea mentale di 35 anni, da inizio alle danze, una musica che da più o meno 8 anni avevo intenzione di ascoltare. Play. Veloce. Veloce, il tempo passa. Salva quest'attimo, salva lo scritto su qualche scrivania. Gesti contro pensieri, pensieri contro gesti. A seminare, nel senso di disperdere, tutto ciò che è stato finora. No, no, non rileggere. Rileggerai e non sarai tu. E che regalo. Resisti. Resisti alla tentazione di correggere il flusso e senti questa chitarra, semplice, come scioglie le tue immaginazioni, senza chiederti nulla in cambio. Bagna i tuoi occhi, tonifica le tue orecchie grandi e asciuga i tuoi dubbi. È lei che hai sempre voluto dall'inizio senza fine della tua piccola vita di principessa inconsapevole. Quanto tempo è passato? 7 minuti. È già tardi. Ma no, no, non rileggere. Rileggerai e non sarai tu. E che fortuna. Ma che succede ora? Il suono si è inacidito di nuovo e quella talpa torna a scavare. No, rosicchia pure quei 5 centimetri conquistati con tanta fatica. Con una lingua secca e gonfia e con troppo acido lattico che indolenzisce cervella e volontà. Ma non puoi fermarti adesso. Continua. Raccatta brandelli di tè. Friggili. Rendili più croccanti e resistenti. Vedrai che saranno pronti per tutte quelle bocche inopportune che ti mangeranno senza assaporarti, ma anche senza sapere, ahimè, che tu occluderai il loro intestino crasso, svuotandone però quello tenue, così da tenerle in vita e farle spiare con continue scariche di dolore. Ma no, no, non rileggere. Rileggerai e non sarai tu. E che salvezza. Yeah, yeah, yes. A volte abbreviati in YYYS, sono un gruppo alternative rock formato dalla cantante Karen O, dal chitarrista Nick Zinner e dal batterista Brian Chase. Pur mancanti di bassista, danno vita a questo trio il cui nome deriva dal fatto che la gente di New York non dice solo una volta yeah, ma lo ripete 3 volte. Yeah, yeah, yes. Maps fa parte dell'album Fever to Tell del 2003 ed è la colonna sonora del mio primo lungo viaggio in California nel 2004, cantata rigorosamente a squarciagola, come in un film di Cameron Crowe. Se ti piacciono, ascolta anche Pixies, John Spencer Blues Explosion, Blonde Redhead and White Stripes. Rallento, rallento. Rallentare non è per forza fermarsi, perdersi tra le nuvole, riflettere, restare indietro. Rallentare non è per forza temporeggiare. Rallentare non è per forza smettere di ballare. Non sapere essere veloci. Rallentare non è per forza approfondire. Non è per forza sprofondare. Rallentare non è per forza gustare o stare ad aspettare. Rallentare è standante, travestito da allegro, vivissimo e originale. Rallentare è standante, travestito da allegro, vivissimo e originale, nel senso di originario. Rallentare a volte è andare avanti, a volte è stipare l'entusiasmo, sostenere una sincope, altre è fingere una lentezza. Rallentare a volte è raccogliere il vuoto, a volte è un vuoto a perdere. Rallentare a volte è guadagnare spazio sul fondo, altre è essere al passo con folle barocche. Rallentare, rallentare solo a volte è rendere omaggio al mio ansimare. Concedere tempo al sole e alla luna. Concedere tempo alla luna e al sole. Al sole e alla luna. Concedere tempo al sole e alla luna. Concedere tempo alla luna e al sole. Al sole e alla luna. La luna e al sole e alla luna. Altre è scomporre, smembrare, sfasciare. Rallentare è quasi sempre tantra dell'anima. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Rallento per resistere nella variazione di un ritmo infinito. Johann Sebastian Bach, parruccone divino e bacchettone, la sua musica è perfezione per eccellenza. Al di là dell'alto numero delle note ribattute e degli abbellimenti da lui scritti, nulla in Bach risulta eccedente, a parte i boccoli e i figli, 20. La mia infanzia è trascorsa per buona parte ascoltando e fischiettando i concerti di Brandeburgo all'insegna del godimento barocco. Che sia stato un vizio nocivo e prematuro a quell'età? Beh, se fossi stato un bambino maschio, avrebbe tutt'al più rafforzato la mia parte omosessuale. In quanto bambina femmina, ha solo accresciuto in me l'amore per la principessa Sissi e il rammarico per l'alone dei baffi che offuscavano il visetto angelico di Romy Schneider nell'omonimo film Riguardare per credere. Dunque, potete tranquillamente bearvi dell'accompagnamento concertante in eco che la coppia di flauti dolci fa al violino solista del concerto brandeburghese numero 4, farvi riempire dal basso continuo che nel primo movimento fa da sostegno al cosiddetto fort spin nuptipus, e da ultimo vendere l'animo al demone barocco. Se ti piace, ascolta anche Georg Friedrich Händel, Giovanni Battista Pergolesi, Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Antonio Vivaldi e Scarlatti Vari. Piccola nota, il fort spin nuptipus è un'elaborazione dell'inciso melodico d'esordio anche attraverso modulazioni a tonalità differenti da quella di partenza. Credo di potere. Finalmente credo di riuscire. Ed è ora il momento adatto. Quale potrebbe essere momento migliore di questo per abbandonare strategie di dolce dominio se non proprio questo? Sì, proprio questo qui. In the sky I see angels flying all over town. They've got names in their pockets of lovers lost and found. È maturo come quelle banane in stile Serra, nel senso di quantitismo, che sono così dolci da non avere altro destino se non quello di sciogliersi in bocca. Amo profondamente quelle banane e mi eccita il pensiero di vederle mutare sotto i miei occhi e sotto la mia lingua. Monocrome di un verde acidissimo e duro passano a divenire gialle, calde e solleticate da sciami di piccoli punti neri che rallegrano la rigida uniformità dell'essere acerbo. I was made for loving you. I was put on this sweet earth to own. I was made to love you. In the air I hear gunfire going off in the hills. Clocks are ticking, the battle is nearing. I'm fending them off with these bills. If you're stuck on the front line, would you charm me where you might like the idea of the kill, but you don't know what dying's about. Oh, hey, hey, hey, hey, yeah. When these ieri ero tutta immatura, tutta fatta di una giovinezza paralizzata dal tanto tempo a venire, tutta regolata dall'integralismo dell'anima di un legislatore, tutta dipinta dell'unico colore del deve essere così. Oggi desidero lentiggini ad invadere la mia pelle e dita che scelgano ogni giorno un percorso diverso per contarle. Tempo però, si faccia avanti quella mano prima che io marcisca nella melassa. I was made to love you. Yeah, I was made to love you. Polly Paulsma, cantautrice indie folk britannica, dopo il diploma svolge molte attività. È ricercatrice per la BBC, scrive un romanzo che, ahimè, non verrà mai pubblicato, suona come hobby e solo nel 2001 decide di diventare musicista a tempo pieno. La mia passione per lei ha inizio un paio di mesi prima di partire per la California, con il singolo She Moves in Secret Ways, che ho scovato in una raccolta annessa al numero di luglio-agosto di Mucchio Selvaggio del 2004, che diviene ben presto una litania ossessiva e mi spinge a cercare disperatamente l'album che lo contiene, Scissors in My Pocket. Lo ordino, mi arriva, lo imparo a memoria, parto per San Francisco il 21 settembre ed il 23 ero sotto il piccolo e favoloso palco del Caffè du Nord ad ascoltare in adorazione Polly e la sua chitarra, l'unica accanto a lei. Di gente ce n'era davvero poca e questo amplificava il fragore delle mie scene deliranti e forse anche un po' fastidiose. Lei era stupita di sentirmi cantare a squarciagola ogni suo pezzo. Nel resto era una perfetta sconosciuta. Finito il concerto, ha sceso i 3 gradini che la separavano dall'unica folla che ero io e mi ha chiesto chi fossi, da dove venissi e dove l'avessi conosciuta. Io ho risposto, emozionatissima, che ero italiana e qualcos'altro rispetto all'amore che nutrivo per la sua musica. Beh, alla fine mi ha chiesto di scriverci via mail, così da tenerci in contatto. Ero stata una brava groupie, devota ed eterosessuale, proprio una groupie per bene. 3 mesi e mezzo dopo, mentre lei era sempre sul palco, stavolta io ero in disparte, dietro una colonna. Cantavo sempre, ma a bassa voce. Non ridevo, ma piangevo. Non era San Francisco, ma Roma. E a me la California mi mancava troppo. L'organo sul finale di I Was Made to Love You era il suggello perfetto alla mia disperata malinconia. Io e Polly ci scriviamo ancora ogni tanto. È proprio vero che le anime si cercano. Se ti piace, ascolta anche Nick Drake, Joni Mitchell, Laura Marling, First Aid Kit. Piccola nota, Mucchio Selvaggio è una rivista mensile indipendente di musica e cultura, oltre che l'omonimo film western del 69. Quasi folklore. Non avere un centesimo in tasca e sorridere divertita, come se stesse iniziando un viaggio nelle tradizioni andine dei curanderi. Una manciata di foglie di coca e il gioco è fatto. Il mio futuro è nelle mani di un uomo naturalmente sballato. E questo vi garantisco, mi rassicura più di ogni scrivania immobile, ancorata alla certezza che domani timbrerò ancora. Agito le foglioline sante e ansiosa ascolto il responso che cambierà la mia vita di piccola principessa inconsapevole. And I'm running out of patience to be fucking with this now. You better believe me when I say this now. And I'm packing up my. Che una di sangue nobile debba ricorrere ad arti magiche per risvegliare un barlume di intuito. Dubbi oltre che amletici si insinuano, ma la disperata voglia di uscire da sta gabbia d'oro finta. Pressa le sbarre, brucia le calcagne, morde sul collo, spacca le tempie e torce seducentemente lo stomaco come solo la disperazione sa fare. E lei, nel senso di disperazione, ha sempre la meglio. La divina dei giorni nostri non fa distinzione di casta. Muove le razionalità più incallite a provare tappeti di chiodi sperando che spuntino più mediali, ad inciampare tra le pietre di giardini molto poco zen, a recitare litanie di dubbia origine e lingua, ad infondere amore con filtri di sangue mestruale e tè. Micah P. Hinson. Micah, come da pronuncia, è un cantautore texano d'adozione. A cavallo tra il folk e l'alternative rock, da molto giovane passa parte del suo tempo in prigione. Parte scappando ancora minorenne con Melissa, la modella di Vogue, e parte a registrare bellissime canzoni sotto effetto di alcol e psicofarmaci. Per i 3 anni di terapia junghiana che ho praticato, Benedetta, la mia terapeuta, non ha fatto altro che smontare il mio sogno di vivere la vita di Micah. Di essere come lui, di scrivere come lui, di stonare come lui, di inculare il prossimo come lui. Quest'ultimo era l'aspetto che più mi affascinava e che volevo raggiungere ad ogni costo. Lungi dall'indicarmi cosa fare o pensare, Benedetta continuava a fornirmi strumenti onirici nel tentativo disperato di suggerirmi che Micah non fosse propriamente un modello da seguire. Io, di contro, ripetevo il testo di On My Way come un mantra, fiduciosa che avrebbe illuminato anche la mia di strada. Inoltre, sempre casualmente, avevo saputo delle storie su Maika da una mia amica che lo conosce bene, a proposito di un soggiorno d'amore romano finito in una piccola tragedia. E il mio interesse, invece che calare, cresceva ancora di più. In qualche modo Roma non era più accogliente per lui, eppure Maika torna a suonarci trionfando con tanto di moglie santa e adorata al seguito, The Dear Ashley. È un dato di fatto. I fans tollerano quasi tutto, il suo barcollare, il suo biascicare, i suoi racconti e le sue accordature infinite. Le gruppi come me, tutto, anche le mogli. Se ti piace, ascolta anche Bill Callahan, ovvero Smog, Lamb Chop, Vic Chestnut, Giant Sand. Due piccole note. La prima riguarda il curandero, che è la moderna figura dello sciamano e predice il futuro servendosi di foglie di cocaina. Il secondo, riguardo al filtro di sangue mestruale e tè, è un filtro magico utilizzato da una grande attrice, ormai anziana e vivente a Roma nel quartiere Ostiense. Ed ora che sono arrivata qui giù c'è poco pane, poco amore, ma urge tanta, tanta, tanta fantasia. D'accordo, reinvento ogni cellula della defunta me che non reggeva più sta vita. Rispondo al telefono come una Rossella Vanni qualunque, creata lì sul momento. Maneggio cannoli ripieni di ricotta ripiena di gocce di cioccolato. E questo, in qualche senso, è anche buono. Salgo e scendo ripide scale al suono di prolissi standard jazz. Canticchio mall'amore no, sfilandomi dei guanti neri, ahimè senza pizzo. E disillusa distribuisco in ogni angolo dove c'è smercio informazioni su una finta me. Ah, dimenticavo! Addirittura ipotizzo di tornare ad architettare degli spazi. Poliedrica, eclettica, multiforme, enciclopedica. Schizofrenica, soprattutto. Altresì pazza e recidiva. Riconoscermi in una vera me, che fatica a imbollarmi per compiere quella scelta creativa al giorno che leva terapie di torno. Ma d'altronde è meglio scalarla questa montagna e mettermi in salvo da tutte ste cose in più. È meglio grondare di sangue e lasciarle andare tutte ste cose inutili, perché qua giù, seppure mi sforzo, il sudore sembra non avere fine, si genera e si riassorbe in un ciclo continuo. E non è un sudore che ti dà soddisfazione di avere fatto, no, è un sudore che ha disfatto spudoratamente qualunque piccola velleità di me principessa inconsapevole. Anche se mi sa che per qua giù tocca passarci prima o poi, è tappa obbligata per arrivare lassù e lì accorgersi che è solo cambiata la prospettiva. T-Rex. Tutt'altro che giurassica, questa band inglese fonda il glam rock, genere scintillante che domina gli anni 70 londinesi. Tra i vari posteri, anche gli adepti del proto-punk ed io siamo tra quelli che devono molto ai T-Rex. Appena sento che tutti i mali del mondo cominciano ad intasarsi nel mio stomaco, ascolto Mambo San e il traffico di nuvole nere scompare alla luce di un sole arrangiato con strumenti giocattolo d'ogni sorta. Basta così poco, dopo anni di duro lavoro sulla consapevolezza. Un po' come a Picasso, bastano pochi minuti, 3, per ritrarre una donna parigina alla modica cifra di 5.000 franchi e una vita passata a disegnare. Paillette, parrucche ed una sana ironia sono gli ingredienti per risvegliarsi alla vita. Peccato che quando Mark Bolan, cantante spina dorsale del gruppo scampato alla tossicodipendenza, decide di risorgere, esce di casa e muore in un incidente stradale. Era l'alba del 16 settembre del 1977, lo stesso giorno dello stesso anno in cui moriva la diva più divina di tutti i tempi, Maria Callas. La fine dei T-Rex e del melodramma si consuma in un colpo solo, e stavolta c'è poco da ridere. Se ti piacciono, ascolta anche David Bowie, New York Dolls, The Stooges e Suede. Io sono comunque una donna, un questionario. Il mio presente è affollato di domande a cui le risposte cambiano sempre. E nel tentativo di accogliere tutto, è il contrario di tutto. Il conflitto che nasce è sanguinario, è crudele. E l'unità si fa dolorosamente doppia. Paradossi, incoerenze, contraddizioni, incongruenze e sconnessione, troppa, da me, da quella buona, da quella cattiva, da quella tiepida. Impugno i guantoni e sbatto il buon senso all'angolo, capace di apprendere qualunque tipo di nozione, tranne quella famigerata e sconosciuta via di mezzo. È un dato di fatto, ho ancora bisogno di un padrone. Ho ancora bisogno di frusta e zuccherini per andare avanti e costringermi a saltare sta fila d'ostacoli che non finisce più. La domanda di oggi è: potrei impadronirmi io di me? Potrei pagarmi per lavorare ad una pompa di benzina e poi tornare a casa la sera e scrivere una delle canzoni d'amore più belle della storia. Oppure potrei persuadermi a leccare culi e succhiare cazzi per 6 mesi di gloria da reality. O ancora, potrei fare fiocchetti ad un numero imprecisato di pacchi e convertire l'automatismo di questo gesto ripetuto in un biglietto aereo low cost solo andata. Sì, solo andata. Fanculo al ritorno. Poi mi viene voglia di una sana ironia, di danzare techno music sotto la basilica di Massenzio, di una lacrima rosso sangue, nel senso divino, di sedermi a terra e bloccare il Palio di Siena, di occupare un teatro all'italiana, di non dover per forza votare un politico nero, o semplicemente di non essere al centro di una faglia. Che di precipizi ne evito già tanti. E la risposta di oggi è la risposta di oggi. Christmas light, clutch the light, the hell of bright. Bon Iver è un folk raffinato e francese come un buon inverno, quello della band di Justin Vernon, rima a parte. Solo due dischi all'attivo ed è già diventato grande. Beato lui. Io provo a saltare questa adolescenza tardiva 20 anni dopo. Le sue atmosfere rarefatte, i suoni delicatamente arrabbiati che vi si stagliano netti, le melodie epiche, la voce falsettata perennemente al di sopra di tutto, mi sussurrano all'orecchio dell'animo che è il momento di essere triste. Holocene è compagna di malinconia. È giustificazione al mio rammarico di quanto poco io abbia fatto, di quanto poco io abbia, di quanto poco io sia. Adesso, mentre scrivo, la riascolto e piango. La riascolto e mi piango addosso. La riascolto e non scrivo più. Sono troppo occupata a celebrare il lamento nella sua essenza di inattività. E in piena sindrome premestruale. Se ti piace, ascolta anche Volcano Choir, James Vincent McMurrow, Fleet Foxes, Iron and Wine and Daughter. Due piccole note. La prima riguarda lo scrivere una canzone d'amore dopo aver lavorato ad una pompa di benzina. Vedere la biografia di Eddie Vedder a proposito della scrittura di Black nell'album 10 dei Pearl Jam del 1991. Riguardo all'ipotesi di leccare culi e succhiare cazzi, io mi sono liberamente ispirata alla biografia di Melita Tognolo a proposito dell'edizione del Grande Fratello 7 del 2007. E comunque è tardi. Devo provare a chiuderli sti occhi. E comunque è troppo tardi. Ci sono caduta dentro, con tutte le scarpe e senza pazienza alcuna. In questa tragica altalena di proiezioni poco a fuoco, mi sento dentro ad un fantastico mondo di vetro. Trasparente e vuoto, trasparente e fragile, trasparente e inutile. Può morire anche l'ultima illusione, l'amore no. Mai, mai, mai, mai, mai, non ci lasceremo mai, mai, mai, mai, mai. Non ci lasceremo. È un giro tondo la felicità. Pensavo non potesse crepare così all'improvviso, ma voglio urlarlo al mondo quanto sia lancinante tutto ciò. Sì, lui, nel senso di Manscreen, è quello giusto. Decisamente brutto ed innocuo, si paventa oggetto ideale per la pratica di romanticismi deteriori dal sapore vagamente platonico. Domani sei con me, è un'altalena il nostro amore. Ebbene signori, è il momento dell'amore. Non ci lasceremo mai, mai, mai, mai, mai. Non ci lasceremo mai. Può morire anche l'ultima illusione, l'amore no. Bye. was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So per un brevissimo tratto di strada, sospiri incantata nutrendoti della sua materia più grigia, senza mai saziartene. Perché è troppo buona? No, perché non è mai abbastanza, perché per quanto tu possa sforzarti, il vetro, se è vetro, non sarà mai carne. Lo guardi, lo ammiri ed è bellissimo. Lo baci, lo abbracci ed è freddissimo. Puoi solo continuare a vomitarci sopra la bile, i succhi e le voglie che nonostante tutto ancora autogeneri e che si ricompongono fallacemente sul suo essere schermo. Sei libera di fare tutto. Tutto da sola. Ebbene, signori, il momento dell'amore è giunto al capolinea più vicino della storia. Orietta Berti. Non avrei mai, mai, mai pensato che la capinera dell'Emilia o l'usignolo di Cavriago, come veniva chiamata la nostra Orietta, ad un certo punto avesse dato una svolta folk alla sua carriera. Lo scopro casualmente e trovo il nesso, finora sconosciuto, tra me e lei. Ed ora ascoltare l'Altalena, un 45 giri del 69 indubbiamente vocato al pop, ha tutto un altro gusto, decisamente folcloristico. Ma non c'è mai fine alle sorprese. La Berti ha inciso 10 anni dopo un 33 giri dal titolo Barba Papà. Sono più legata ad Orietta di quanto pensassi e solo grazie a lei sento di essere un'italiana vera. All'improvviso ho una crisi d'identità. Per un attimo ho creduto davvero che la felicità è un bicchiere di vino con un panino. Che confusione. Sarà perché ti amo. Beh, a questo punto credo sia bene che finché la barca va, lasciala andare. Se ti piace, ascolta anche I Nuovi Angeli, Rossana Fratello, Gianni Meccia, Il Giardino dei Semplici. Sixto Rodriguez. Rodriguez è la via d'uscita, è una guida. È musica di rivolta senza far rumore. È la donna mite che qualche volta riesco ad interpretare. E soprattutto è una storia incredibile, quella di un profeta contro la legge di Dio, vagabondo negli angoli di Detroit. Sixto è come Cassandra, verità e talento, sincerità ed arte, troppo difficili da accettare al primo ascolto. Gli Stati Uniti lo hanno ignorato comprando in totale 6 dei suoi dischi. In Sudafrica, contemporaneamente, la censura lo graffia ed il divieto lo consacra. Un uomo ispanico, sconosciuto, diviene più famoso dei Rolling Stones. E mentre la sua musica trionfa quale simbolo della lotta all'apartheid, lui, ignaro a sua volta, passa la vita lavorando tra un cantiere ed un altro. Sixto, il carpentiere elegante che sgobba per mantenere 3 figlie e laurearsi in filosofia. Jesus, il poeta che le leggende vogliono morto dandosi fuoco sul palco. Ma chi è Rodriguez? La perfetta armonia d'entrambi. La sua storia è la dimostrazione che la giustizia esiste, la qualità magica della sua musica, capace di elevare la più misera delle quotidianità, ha esercitato il suo potere, realizzato l'impossibile al momento opportuno. E nel 1998, complice un caso davvero determinato, passa dall'essere un emarginato ad essere se stesso, un musicista. Sono stati giorni di miracoli e di meraviglie quelli dei primi concerti in Sudafrica. Ancora una volta Rodriguez trasforma agonia e dolore in magia. così sul palco, il posto che aveva sempre cercato, e così come aveva fatto tra la neve a Detroit, ai margini del posto in cui aveva accettato pacificamente di vivere e di lottare. Rodriguez è prodigiosa dignità, sempre e ovunque. La sua storia è la dimostrazione che una musica pura può essere una vita pura. Al di là della fama, c'è la fame di mangiare, di scrivere, di suonare. C'è lui e la purezza di una creatività innata e sostanziale. Al di là della fama, maledetta visibilità che disturbi la mitezza. Se ti piace, ascolta anche Charles Bradley, Leonard Cohen, Nick Cave and the Bad Seeds, Daniel Johnston. Due piccole note. La prima riguarda Cold Fact, album del 70 da cui è tratta Crucify Your Mind. Quando arriva in Sudafrica, la censura graffia letteralmente il vinile originale, così da non essere trasmesso in radio, poiché considerato pericoloso per il regime vigente e incitante alla sommossa. Jesus è lo pseudonimo con cui si firmava Rodriguez in alcuni casi. Giunta ad una nuova stazione, indosso il mio cappotto, quello nero, quello da strega. Mi difendo dal freddo e da pensieri troppo buoni. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover man. Perché alla fine quelli che ce la fanno sono sempre i più cattivi, e anche lui, il menestrello, è solo apparentemente portatore di pace. Nella sua realtà più profonda ci disprezza tutti e vorrebbe vederci morti, tutti. Quelli che ti urtano con zaini prepotenti pieni di nulla, quelli che tu rispondi e loro continuano a farti domande, quelli che tu hai sete e loro ti portano una sedia, quelli che ti dicono che sono vegetariani, ma la mortadella è troppo buona e il pesce è troppo stupido. Quelli che tu scrivi e loro non ti leggono. Quelli che tu giudichi senza pietà, ma c'hanno sempre la meglio. Quelli che ti giudicano senza pietà, ma c'hanno sempre la meglio. Quelli che... Avanti, da completare secondo i vostri propri fastidi. E tanti, tutti ancora. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. E così, dalla corteccia cerebrale, una serie di pallottole si irradiano a colpire bersagli casuali e sconvenienti. E sperma rosso, nel senso di sangue, libera valanghe di godimento represso, vendica milioni di sì che avrebbero voluto essere dei no, conferisce potere e giustifica solitudine in una terra ormai bruciata, ma finalmente pura. So if you're traveling the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Ognuno cerca il suo gatto, ed ognuno, anche senza cercare, trova un perfido menestrello dentro le sue viscere. È nella parte più a nord. Ce la possiamo fare. Bob Dylan. Scrivere di Jack Frost, uno dei tanti pseudonimi di cui Dylan si serve, è imbarazzante. Posso solo dire che lui è il folk. Posso solo usarlo per descrivere il mio amore per il folk. La questione principale a proposito del rock and roll per me era che comunque non era sufficiente. Tutti Frutti e Blue Sweat Shoes avevano frasi di grande effetto e di grande presa, nonché un ritmo trascinante ed un'energia travolgente. Però non erano cose serie e non riflettevano per niente la realtà della vita. Sapevo bene, quando mi sono dedicato alla musica folk, che si trattava di una cosa molto più seria. Le canzoni folk sono colme di disperazione, di tristezza, di trionfo, di fede nel sovrannaturale, tutti sentimenti molto più profondi. C'è più vita reale in una sola frase di queste canzoni di quanta ce ne fosse in tutti i temi del rock and roll. Io avevo bisogno di quella musica. Posso solo aggiungere che penso di Bob quello che lui diceva dell'amato Udi Guthrie. Potevi sentire le sue canzoni e allo stesso tempo imparare a vivere. Infine, posso solo immaginarmi una girl from the North Country. Piccolo inciso, la citazione di Dylan è tratta da una delle note raccolte da Cameron Crowe nel libretto che corre dall'album Biograph, che è una raccolta di Bob Dylan pubblicata nell'85. È proprio quando pensi che tutto sia finito, lei ti sorprende, ti guarda, ti rapisce. Lei è l'amore che non ti tradirà mai, che sarà finché morte non vi separi, che è l'unica ad accompagnarti nei sentieri distorti in cui ti perdi e ti perderai. Lei, così lunga e sottile, così attenta e vigile, così forte e affidabile, così bella e sensuale, così morbida ed accogliente. Lei è lei l'amore che non tradirò mai. Oh, la glove and white skin, portrait of beauty, angel to man, hears the harsh crying from the briar, reaches in her hand to see, and what's the matter? Is dry through the darkness beneath the lonely cypress. L'omosessualità mi ha salvato la vita, oltre che dagli uomini. Era chiaro, puro, cristallino da sempre. Se solo mi avessero lasciato vivere come avrei voluto, chissà. Old town ropes burst into flame, bodies go searching down a crooked roadways, find no Rufus there, drunk and asleep, fishing by the water, must have killed and I love his daughter, can't hold back these waves of anger, tie rope round his neck, see if he still hollers, another innocent soul hangs as over the briar. Con lei andrai in capo al mondo ed oltre. Con la sicurezza dei suoi passi il percorso diventa eccitante, diventa vita dinamica. Con lei i nodi si sciolgono facendo su e giù e trovando insieme il ritmo giusto del nostro respiro. Ed un abbraccio enorme è sempre troppo piccolo per contenerla. Sedativo selvaggio ai miei pensieri, Toscana è gioia pura, finalmente. Ma davvero tutto st'affanno e sta ricerca? Per poi tornare al mio primo amore di bambina principessa inconsapevole. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel tuo? Toscana è una bellissima e talentuosa cavalla di 13 anni e attualmente è l'amore. Che c'è il lupo e la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero nella notte scura, ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio. Ornella Vanoni. Archivi storici la riportano quale attrice accademica prediletta da Streller e Dario Fo. Voci di corridoio insinuano che avrebbe voluto fare l'estetista. I più la conoscono come la cantante delle canzoni d'amore di Gino Paoli. Ed è così che l'ho scoperta anch'io. Avevo 6 anni e mia madre, donna di straordinaria bellezza all'anagrafe Maria Pompea, non faceva altro che farci ascoltare lei e i Beatles e lei. Lo snobismo alto borghese della Vanoni è stata l'esca perfetta per attrarre mamma al suo amo e la causa di tanta educazione distorta che mi è stata impartita. È colpa di Ornella se in fondo ancora penso che 2 coniugi debbano dormire in stanze separate e che la mia vita avrebbe dovuto svolgersi al fianco di un ricco industriale rigorosamente munito di barca. È colpa di Ornella se ancora mi pongo il problema dell'esistenza di un coniuge in generale. Eppure, cantare Domani è un altro giorno, grande successo del 71, con l'intensità di una donna tradita, mi è sempre piaciuto, ovunque, in macchina, in tram, in treno, a cavallo, in motorino, a piedi, meno che in barca. Negli ultimi giorni il tradimento è il tema portante della mia emotività ed imitare la voce nasale della Vanoni mi ha aiutato a distrarmi, ad evitare delitti d'onore un giorno da scontare. Un po' Ornella, un po' Rossella o Ara, mi sforzo di pensare che tutto andrà bene mentre una sana bossa nova cerca di sciogliere la rabbia e farmi guardare avanti senza paura. In alternativa, non mi rimane che un corso di salsa e dare ragione a mia madre.